Italia in controluce. E la mattina dell'11 maggio, vi parla Daniele Biacchesi su Radio 24, questa è la prima delle due edizioni di Italia in controluce. È dedicata all'acqua pubblica, la puntata odierna Alessio Maurizi ci racconta una storia che viene dalla Toscana. C'è un posto in Italia dove la privatizzazione dei servizi dell'acqua la conoscono da tempo. 32 comuni in provincia di Arezzo e 5 in quella di Siena. Dal 1999 hanno affidato la gestione dell'acqua e degli scarichi a una società mista pubblico-privata. Jérôme Dusiec ne è l'amministratore delegato. Noi effettivamente siamo la prima esperienza, la prima applicazione della cosiddetta legge Galli, che prevedeva dal 94 una grande riforma del settore dell'acqua. Punto di forza dei privati, che è anche il motivo per il quale dopo la legge Galli c'è stato anche il decreto Ronchi del 2009 che obbliga i comuni a cedere almeno in parte la gestione ai privati, è la qualità del servizio. Punto critico invece le tariffe, che sono spesso cresciute. Ma iniziamo dal servizio che migliora. Ancora l'amministratore delegato di Nuove Acque di Arezzo. Abbiamo una serie di indicatori, a cominciare da chi dichiara bere l'acqua del rubinetto, erano circa 18% all'avviamento della concessione 10 anni fa e oggi sono più del 57% a dichiarare bere l'acqua del rubinetto. Sul fronte anche ambientale abbiamo appena inaugurato il nostro 32esimo depuratore di acque reflue, significa cioè aver diviso quasi per due il numero di scarichi liberi che vanno all'ambiente. Avendo investito più di 132 milioni di euro in questi 12 anni, noi stimiamo di aver generato sul territorio più di 2 milioni di ore di lavoro. Prima di affrontare l'aspetto legato alle tariffe, sentiamo il punto di vista di chi, dopo aver appoggiato in consiglio comunale l'affidamento a Nuove Acque, adesso sostiene che quel percorso non è andato come doveva. Fabio Roggiolani, consigliere regionale di Sinistra Ecologia e Libertà. Mano a mano che andava avanti l'esperienza, quello che era la nostra intenzione di responsabilizzare la popolazione ad un uso sostenibile dell'acqua si è pur progressivamente trasformata in una serie di atti più speculativi che di sostanza. In particolare quello che poi un giorno ha fatto saltare tutti gli equilibri è quando si è preteso che anche quando la società andava in perdita, comunque il partner privato doveva avere un utile. Ma questo da cosa è previsto questa cosa? È previsto dai patti parasociali fissi che avvengono sempre quando si fanno questi, in particolare le società francesi, quando entrano e quando sono entrate, questa questione era assolutamente ineludibile. Sì. E l'altra questione che non hanno mai accettato in un patto corretto tra privati e pubblico è la questione del fatto che il pubblico viene suddiviso in 50-60 quote, per cui finisce che il 49% del privato è vero e il 51% del pubblico è falso. Ma dicevamo dei costi che tendenzialmente con l'affidamento ai privati aumentano e non poco. L'amministratore di Nuove Acque di Arezzo, Dusiec. La tariffa è determinata precisamente dal volume di investimenti che noi facciamo. Quindi in sostanza la tariffa aumenta quando aumentano gli investimenti che sono fatti. Questa è una meccanica che è definita dalla normativa e non certamente da noi. Oggi una famiglia, la famiglia media nostra che consuma circa 150 metri cubi l'anno, paga di bolletta d'acqua un po' meno di 300 euro l'anno, quindi stiamo parlando di in media un po' meno di 2 euro al metro cubo all'anno. Quindi per il consumatore l'aumento medio qual è stato? Allora, l'aumento medio è difficile, è una domanda molto difficile perché le tariffe erano molto disparate, molto eterogenee sul territorio. Ci sono zone per le quali l'aumento non c'è stato e ci sono zone montane dove non avevano bolletta d'acqua. Se parliamo di media, il nostro censimento faceva vedere una tariffa poco superiore media a 1 euro al metro cubo 12 anni fa e oggi siamo intorno a 2 euro al metro cubo. Quindi se volessimo sintetizzare potremmo dire che c'è stato però effettivamente un aumento del 100%. Non posso ovviamente condividere questa fotografia perché per parlare di pagamento dell'acqua effettivamente dovremmo aggiungere quello che sostenevano gli utenti prima nelle imposte, perché in tutti questi comuni dove non c'era bolletta dell'acqua ma c'erano altre forme di pagamento, non saprei dire se esistono ancora oggi, questo non ne so rispondere, però questo è importante, però bisognerebbe anche poter dire che in effetti queste altre tasse non ci sono più. Il calcolo non può non tenere conto di questi effetti di qualità del servizio,